La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Oggi vi parlerò di un film, Viaggio sola di Maria Sole Tognazzi, con Margherita Bui e Stefano Accorsi. La protagonista è Irene, una donna che ha superato i 40 anni ed è senza figli e senza marito. E sappiamo bene che in Italia questo tipo di personaggio non viene mai trattato. Non viene mai trattato perché è imbarazzante. Perché mentre lo scapolo viene considerato un uomo fortunato, un uomo libero, quando c'è una donna non accoppiata e che non abbia figliato, c'è sempre quel velo come di compatimento. E qui invece la cosa viene trattata nella sua verità. E questa donna, Irene, fa un mestiere molto, ma molto strano, che prima di vedere il film non sapevo nemmeno che esistesse. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Vi voglio parlare di un film che è adesso nelle sale, Viaggio sola di Maria Sole Tognazzi. La protagonista, interpretata da Margherita Bui, fa uno strano lavoro. Arriva nei grandi alberghi di lusso, su delle macchine lunghe come i casseggiati, fingendosi una ricca cliente, e invece è un ispettore in incognito, quello che nel gergo alberghiero viene chiamato l'ospite a sorpresa, temutissimo da tutti i direttori d'albergo. Dunque Irene arriva, occupa una camera e prende nota di ogni imperfezione e dimenticanza, e questo significa per l'albergo avere dei punti in meno. Irene gira il mondo intero, mari, monti, terme, metropoli. È un mestiere che ha qualcosa di sordido e di grandioso, e anche una ombra graziosa di infanzia, come quando da piccoli si giocava a detective. Appena arriva, Irene apre la sua valigetta e tira fuori i suoi strumenti, come un agente segreto o come un ladro. Si infila dei guanti bianchi di filo e ripassa ogni superficie, i cappelli dell'albajur, le cornici dei quadri, per scoprire qualche granello di polvere. E annota. Guarda sotto i letti, seziona il frigo bar, ispeziona le docce, ordina il pranzo e cronometra il tempo di attesa, il grado di cortesia del cameriere e poi ha anche in questa valigetta un termometro speciale per misurare la temperatura della zuppa o del tè. E scrive. Il fatto è che di lei ti importa subito. Un po' Margherita Bui, e specialmente in questo film, ha il dono di avere in faccia tutte le espressioni che ti raccontano ogni sua emozione, e a questa donna sommessa che non fa niente di clamoroso ti affezioni. Dalla prima scena diventa il tuo eroe. La segui come seguiresti Clint Eastwood in Gran Torino oppure in un western. E tutto ciò che fa e sente ti riguarda. Sei dalla sua parte. Oddio, io uso la terza persona, in verità parlo di me che vedo il film. Eppure non è un eroe, è una spia. È una spia che non corre rischi, una spia che vince sempre, una spia che ha il coltello dalla parte del manico. Allora lo spettatore si identifica. Il lavoro di Irene adombra una grande passione italiana, lo sbaffo. Vivere nello sfarzo senza pagare un euro. Anche se è una commedia, lei materialmente fruisce di una ricchezza momentanea, ma reale. Fra vasche di marmo, rose dal gambo lungo, colazioni fiabesche, quelle dei grandi alberghi che sembrano venire dalla cucina di Riccardin dal Ciuffo, di cui tre quarti è inutile, ci vorrebbero sette persone per mangiarsela tutta. E fruisce anche della gentilezza, se non della reverenza con cui viene trattata, che è compresa nel prezzo, ma anche se è per etichetta, è lo stesso così confortevole. Io, quando sono uscita dal cinema, mi sono ricordata della zia di una compagna delle medie che le invidiavo molto perché era sentimentale ma sobria, e quando un film le era piaciuto diceva solo: mi ha preso il cuore. Ecco, così Margherita Bui così il film Viaggio sola di Maria Sole Tognazzi. Oh, poi Irene in certi momenti è anche un po' Zorro, perché a lei che osserva tutto non sfuggono in un grande albergo un ragazzo e una ragazza appena sposati, che si vede non hanno mai messo piede in un 5 stelle. Sono lì per un'eccezione, un regalo di nozze, e non sono abituati a quei lussi, ne sono ingenuamente intimiditi. Non conoscono i cerimoniali né i nomi dei cibi raffinati, sbagliano tutto e vengono colpiti dallo snobismo del personale, e i camerieri li trattano con sufficienza come clienti di seconda categoria. Irene prende le loro parti, li vendica, addebita il comportamento scorretto all'hotel segnando una Z sul sedere del tenente Garzia, il melliflo direttore dell'albergo. Irene, che è di natura dolce, a volte diventa un giustiziere severo, inflessibile. Oh, Irene conduce una doppia esistenza, perché la mascherata della ricchezza è quando è in missione, ma nella vita di tutti i giorni, quando torna a casa, i suoi gusti sono all'opposto. Le limousine, le vasche idromassaggio attrezzate come astronavi, fanno parte del lavoro. Non sono né il suo scopo né il suo sogno. Nella vita ha altre gioie. Quel lavoro gli serve per mantenersi in un'esistenza semplice. Il suo grande punto di riferimento quando torna a casa, Andrea, Stefano Accorsi, suo ex ma adesso amico fraterno, si occupa per esempio di agricoltura biologica, è un salutista. Senti, posso farmi un bagno? Sei pazza? Tra poche ore di cena. E poi lo sai che sono contrario, no? Ma contrario a che cosa? Alla vasca, si spreca troppa acqua. Sai, no, che fra 20 anni non ci sarà più acqua. E allora facciamocelo adesso questo bagno, no? Ma stai fumando? No! No, no. Comunque tra 20 anni sarò morta. Ah. Stavo fumando. Sì. Oh, quanto si sta bene qui. Ma quasi quasi vengo a stare da te quando torno dai viaggi. Ma? Che fai adesso? Cinema. Ah, con chi? Io, me stessa e me. Bel gruppetto. Sì. Capisco il pomeriggio, ma la sera non ti fa tristezza? Ah, il pomeriggio sì e la sera no. Con il progredire del giorno aumenta il tasso di disperazione dell'individuo? Cioè? Beh, poi te la spiego, eh? Ciao. Ciao. Irene ha anche altri affetti, ma quando una donna è libera, tutti si preoccupano. La guardano come una persona bisognosa, come un caso umano. Insomma, ti vogliono curare dall'indipendenza, come da una malattia. Lei ha una sorella, Silvia, Fabrizia Sacchi, bravissima nella sua convinzione bovina che il matrimonio sia l'unica soluzione, che ha marito, figli e fa la casalinga. Oh, e fa bene a farla, perché è così distratta e irresponsabile che se facesse qualsiasi altro lavoro combinerebbe delle catastrofi. Questa sorella è costantemente preoccupata per Irene. Non riesce a guardarla senza che le si disegnino sul viso tutte le paure che ha per la sua sorte. E in un mondo in cui tutti figliano, tutti si accoppiano stabilmente, se una donna è single, vorrebbero salvarla. E sotto sotto vantano una superiorità su di lei. La sorella, Silvia, a Irene dice delle cose veramente grevi. La guarda con un'aria di gran pena, come se fosse una malata terminale. Le dice, fra 20 anni sarai sola e chi ci bada a te? Lei, che passa la vita a fare le torte, davanti a questa sorella, che gira il mondo leggera come un passero, non fa che angustiarsi per lei. Lei, che sta con un marito musicista, un perfetto, Gianmarco Tognazzi, che a casa esiste solo col corpo, non tocca la moglie da anni, le figlie è come se non ci fossero, lui sta sempre davanti all'iPad a fare un gioco idiota, è completamente alienato, davanti a questa forma di Second Life, dove finge di avere una fattoria e sta sempre a scambiare maiali, conigli e polli immaginari. Marito e moglie sono a letto, lui è fisso sul suo gioco e nemmeno si diverte, perché è angosciato dal fatto che non riesce a piazzare una partita di conigli. Che c'è? Niente. Perché mi guardi così allora? Ma così come? Non ti guardi in nessun modo? Ah, vabbè. Tommaso. Dimmi. Ma tu ci pensi mai a questa cosa? Quale cosa? Al fatto che non facciamo più l'amore. Io vorrei capire se proprio, non lo so, se è una cosa passeggera o se proprio dobbiamo metterci una pietra sopra. Tu che dici? Non lo so. Tu sei preoccupata? Un po'. Ma scusa, a te non ti manca? No. No. Cioè, sì, però sto bene anche così. Ah, vabbè, se sto bene anche così, vabbè. Voglio dire, è ovvio, ogni tanto ci penso, ma non in maniera ossessiva. Non è che sto tutte le sere lì, capito? Io credo che ne dovremmo parlare con qualcuno. Oh, il finale mi ha incantato. C'è tutta la stoltezza del tempo nostro. Due sposi che sono stati lasciati dal desiderio e invece di guardarsi negli occhi andranno da un terzo per curarsi, come se il sesso fosse una cosa da curare. Vanno da un confessore laico, uno specialista, un aggiustatore. Sono efficacissime quelle due parole. Dovremmo parlarne con qualcuno. Dietro vedi l'imbarazzo, la follia di questa pratica alla quale si accingono. Al confessore si è sostituito lo psicologo. Prima il confessore ti chiedeva quante volte l'hai fatto. Adesso lo psicologo ti chiede quante volte non l'hai fatto. E immaginiamo quanto possa giovare all'erotismo l'aggravio del senso di colpa. Torniamo a Irene. Quando vedevo Irene tormentata dalle apprensioni della sorella, mi è venuta in mente la tassa per i celibi che dovevano pagare sotto il fascismo. Oggi una donna sola in Italia, sottolineo in Italia, è come se dovesse pagare una tassa sul nubilato, se non altro sorbendosi quel compatimento che serve solo a indebolire. E tutto questo nel film Viaggio sola è raccontato con un ritmo così naturale, così armonioso. Il montaggio è di Walter Fasano, che è un musicista del montaggio, e gli ha impresso un ritmo di danza. A tratti il film è un valzer che gira, una gavotta, per un istante anche un requiem. Ma è un film delicato ed evita il tango. Ci sono degli episodi di viaggio. Per esempio, una sera Irene, in un sognante albergo in Marocco, viene corteggiata da un bel signore affascinante, il quale intensamente si occupa di lei e alla fine si scusa se non finiranno a letto, dicendo: sa, mi scusi, ma io sono fedele a mia moglie. Questo personaggio è bellissimo, è il prototipo di una maschera frequente nella commedia amorosa. I maschi che ti corteggiano e poi, senza che tu gli abbia chiesto niente, senza magari che tu ci abbia nemmeno pensato, si scusano che finisca lì. Quindi chi è questo? È un creatore di insicurezze che sottolinea che non vuole far sesso come se dipendesse solo da lui, come se Irene già gli fosse caduta tra le braccia, e non è così. Ti fanno sentire indesiderabile ed è bella la scena in cui lei, subito dopo, corre in camera e si specchia in sottabito, si fa un esame, piena di dubbi, per fortuna si trova bella e dimentica. E c'è un altro incontro importante con una donna, Kate, nel bagno turco di un hotel di Berlino. Kate è un'antropologa, una militante dell'indipendenza femminile, e si riconoscono fra solitarie. Quando la vedi al bagno all'inizio, lei è una signora non giovane che in accappatoio sembra anche un po' dimessa, poi si rivela rivestendosi, ha questi stivali alti, neri, lucidi, da mistress, e assume un fascino e un mistero anche per ciò che dice contro la massificazione del desiderio, a me molto familiari, contro la colonizzazione dell'immaginario erotico uguale per tutti. E Kate fa giusto in tempo a recitare Irene il suo Vangelo della libertà, a dargli un appuntamento per un aperitivo, che improvvisamente muore per un infarto. Senza insistere, e quindi più profondamente, si sente che Irene, così leggeramente muovendosi tra un lago e una metropoli, comunque, come tutti noi, sfiora il baratro. La morte anche per lei è vicina. Nel film vediamo che star sole è una libertà, ma costa, ha un prezzo. E c'è un momento in cui Irene si rende conto di quanto questo prezzo possa essere amaro. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Stavo raccontando il film Viaggio sola, che è in questo momento nelle sale, regia di Marisole Tognazzi, protagonista Margherita Bui, una donna che non ha né mariti né figli e ha sempre avuto un rapporto con il suo ex Andrea, un amabilissimo Stefano Accorsi, un rapporto ideale, un'amicizia fra scapoli, piena di vero affetto. Ma poi l'imprevisto. Andrea figlia per caso. Dopo la storia di una notte con Fabiana, Alessia Barela, la ragazza vuole tenere il figlio Anche se Andrea al momento rimane sconvolto, dice: ma io non me la sento di diventare il padre e il figlio di una che conosco appena. Anche qui lei non gli ha chiesto niente e dice: guarda che io lo farò indipendentemente da te. E quando lui capisce che lei lo farà comunque, poco a poco si affeziona all'idea e col solito modo cameratesco corre ad annunciarlo a Irene. Fra loro c'è una tale confidenza che dormono insieme senza ambiguità né alcun accenno al sesso. E davanti a questa rivelazione Irene è presa dal panico. A quel punto si sente davvero sola, perché perde il suo compagno di solitudine e le viene un attacco di gelosia da restarci morta. Capisce che con Andrea è finita, che non ci sarà mai più il rapporto di prima e che alla fine, con tutto il loro distacco, era il suo unico rapporto stabile. Ma quando si accorge che rischia di compromettere il rapporto tra la ragazza e lui, si precipita a far fare loro la pace. Perché Irene ha questo fascino di essere buona, ha questa qualità desueta derisa in ogni tempo e che poi nel nostro non si perdona. E qui c'è una nota di Maria Sole Tognazzi che dice: in se stessa la libertà non esiste, è sempre un compromesso. L'unico vero atto di libertà è scegliere a cosa rinunciare. Una donna trova sempre un modo per essere madre, magari di se stessa. Margherita Bui, Stefano Accorsi, Fabrizia Sacchi, Gianmarco Tognazzi, Alessia Barella sono tutti così veri in questo film. Aveva ragione la zia della mia amica. Viaggio sola prende il cuore. È il film del garbo, della semplicità, dell'eleganza dei sentimenti. Jane ostinatamente. Potremmo intitolarlo Misura e sentimento. A me Viaggio sola è sembrata un'espressione della grazia. Hai l'impressione che la regista ti stia consegnando il suo autoritratto, che lei si metta nelle tue mani e che quindi ti faccia ritrovare tra le tue proprie. E la cosa assolutamente mirabile è che un film così gentile non solo ha avuto delle critiche felicissime, ma anche la gente corre a vederlo. E si vede che nel mondo della brutalità, degli effetti speciali, della violenza poco esaltante, ma nell'esaltazione della prepotenza, si vede che c'è nostalgia di una così sommessa, di così autentica e infine anche straziante tenerezza, con tutta la sua letizia. Maria Sole Tognazzi, mi vanto di conoscerla da quando era piccola, l'ultima figlia di Ugo Tognazzi e Franca Bettoia. Erano una famiglia internazionale e i suoi fratelli erano un piccolo inglese, Ricky, un piccolo svedese, Thomas, figli di altre madri, e poi Gianmarco e Maria Sole, figli di Franca Bettoia, che quando erano insieme faceva da madre a tutti. Casa Tognazzi era anche una bottega d'arte e questi bambini sono venuti su frequentando in maniera familiare i più grandi artisti e non solo di cinema. Maria Sole era la piccola, era l'ultima, e suo padre morì prima che facessero in tempo a conoscersi bene. Maria Sole, 2 anni fa, ha compiuto un esorcismo affettuoso e glorioso. È diventata il padre di suo padre. Si è assunta lei la paternità di Ugo, attore immenso e padre perduto, e ha realizzato un magnifico documentario sulla sua vita. E da allora qualcosa è cambiato. La sua arte filmica è diventata molto più vera e potente. Sono sicura che Viaggio sola nasce anche da quello. Oggi la tendenza è aumentare le dosi, l'uovo con 3 tuorli, cioè una volta Hitchcock teneva inchiodato con 1 omicidio, adesso in un film giallo ci sono 35 omicidi. Maria Sole ha fatto il contrario, ha musicato in togliere. E per la nostra gioia sta venendo qui al Faro l'autrice di questo film. Era de magia, non una scorda, una canzone cantava ma tua voce. Chi o tempo passa e chi o man ricorda. Fresca era l'aria e la canzone. Maria Sole, benvenuta. Ciao Barbara, eccomi qua. Stavo parlando del tuo film. So che va benissimo. Incredibilmente sì. È successo che le donne si sono armate e sono andate in sala. Il film è un successo grandissimo e è il primo incasso italiano. Ma è vero che avete raggiunto Iron Man? Siamo in prossimità di raggiungerlo a livello di media schermo. Beh, quindi invece dei cazzottoni, degli squartamenti, proponi una signora, una ragazza single che viaggia per gli alberghi. Tu hai scritto la grande assente del cinema di oggi. È una figura che le statistiche danno al 17% della popolazione italiana, non proprio una minoranza, in costante ascesa. Lo scappolo di un tempo che negli anni zero è la donna single e senza figli. Io e i miei sceneggiatori abbiamo pensato che fosse venuta l'ora di renderle giustizia. È così che è nata Irene. Posso dirti che sono una donna di 40 anni ormai, e senza figli, senza marito e senza un lavoro stabile, e che ero stanca di immaginarmi, come molte donne, una donna a metà e una donna che non è del tutto realizzata in quanto non madre e non moglie. E da qui è nato il personaggio di Irene, dal desiderio di veramente rendere giustizia e entrare nella mente e nel cuore di una donna che ha fatto delle scelte meno convenzionali e che è tanto felice. Quali sono le cose che sono state dette del film che ti hanno colpita maggiormente? Tanto voglio dirti che quello che mi ha colpito di più era quel momento in cui apri il giornale di giornalisti, diciamolo, anche che non conosci, perché te ci conosciamo, ma io gli altri non li conosco, e leggere quelle recensioni lì è stata una soddisfazione senza precedenti. Parlo di Porro del Corriere della Sera, di D'Agostini, persone che hanno dato spessore attraverso la loro critica e recensione al film. Il film, una cosa che mi hanno detto in tanti e che mi fa molto piacere, è che questo film, che non vive di una trama di colpi di scena o cose di questo genere, è comunque un film che nelle piccole cose sorprende in continuazione. Cioè tutti mi hanno detto, inizia una scena, tu ti aspetti che accada una cosa e accade esattamente il contrario, e mi è sembrato un bel complimento. Eh sì, perché mi sono accorta io guardando il film quanto in fondo io ragioni per stereotipi, perché anch'io mi aspettavo delle cose che poi invece venivano disattese e mi stupivano. Ho cercato anche di andare veramente contro le ovvietà e i cliché di un certo tipo di commedia che si fa in Italia, no? Ho cercato di raccontare un personaggio che inizia in un modo e invece di avere, senza raccontare il film, un'evoluzione e finire appunto che va in cerca di un fidanzato, di un marito, o che finisce il film incinta di tre bambini, è una donna che alla fine del film torna esattamente come era all'inizio. Cioè non c'è l'evoluzione, la curva del personaggio che gli americani ti insegnano in sceneggiatura. Cioè tutto sbagliato praticamente, però alla fine abbiamo avuto ragione noi. Tu dici della donna sola in Italia, tutti intoneranno la litania funesta che l'accompagnerà per il resto dei suoi anni. Sbrigati a trovare un uomo e a fare un figlio, perché questa sembra essere l'unica ricetta per la felicità, o almeno per conformarsi agli usi. Un po' autobiografica questa cosa, sono anni che mi sento dire questo, e ragazzi, uno si sfoga anche con i film. A un certo punto io ho detto, sono una donna sola, senza lavoro, senza figli, sono felice? Mi sono fatta queste tre domande e ho scritto il film. Sono anni che mi sono molto faticosa io nelle relazioni amorose, e ho tutti gli amici e la famiglia un po' preoccupati, tutti si preoccupano. Io dico, ma preoccupatevi per voi. Alla fine il film dice proprio questo: non esiste una felicità che vada bene per tutti. Ognuno deve scegliere la sua. Viaggio sola è un film che parla soprattutto di desiderio e di libertà. Poi naturalmente c'è un prezzo da pagare. Come ogni scelta, anche la solitudine presenta dei conti, naturalmente. Indubbiamente. Irene è una donna che vive dei momenti di solitudine, ma si racconta bene nel film come anche in coppia si viva la solitudine. La solitudine esiste, basta accettarla, basta viverla con il sorriso, fa parte del nostro percorso e fa parte anche quello della nostra vita. Il personaggio di Irene, Margherita Bui, fa l'ispettore in incognito negli hotel di lusso, che è un lavoro assurdo. Il film nasce anche con questa curiosità e questo desiderio di raccontare un lavoro che nessuno conosce. Questi ispettori vivono come degli attori, fanno finta di essere dei clienti, entrano negli alberghi, li mettono sotto sopra, ma non potrebbero mai permettersi una stanza in un hotel come quello. Hanno uno stipendio medio da impiegato, che è come due giorni in albergo, e però vivono come dei milionari. Onestamente mi sembrava cinematograficamente molto interessante e psicologicamente raccontare questa doppia vita e questa doppia visione che hanno. È un punto d'incontro Irene e Margherita Bui, è un punto d'incontro tra due mondi che sono più distanti che mai oggi, quello dei ricchissimi e quello dei piccoli borghesi, che possono sognarlo magari solo una volta nella vita di arrivare in un posto. È un non luogo destinato ai super ricchi. Questo film, che si svolge tutto negli alberghi, abbiamo girato in 7 alberghi del mondo, dalla Cina all'Asia all'Africa, e si vedono questi alberghi e queste città meravigliose. non ha usufruito di un product placement, così come si usa dire nel cinema. Che cos'è? Product placement è quando in cambio di pubblicità ricevi del denaro da marchi perché fai pubblicità. Invece qui c'è stata una vera e propria collaborazione con questo gruppo Leading, che non è, sono proprietari degli alberghi, è un gruppo a cui appartengono degli hotel di lusso, più di 400 hotel di lusso nel mondo. Quando io ho scritto il film ho capito che sarebbe stato irrealizzabile con i soldi che avevamo. Allora mi sono ricordata che ero stata ospite al Fonte Verde, un albergo in Toscana. Ho chiamato, ho detto: ho visto che il Fonte Verde appartiene al gruppo Leading, mi date un numero di telefono di questo gruppo Leading? Ci sarà un capo, qualcosa, una sede nel mondo? E mi hanno risposto: sì, è in America. Ti diamo un indirizzo, ma ciao ciao. Prendo questo indirizzo, mando la sceneggiatura in inglese in America. Dopo 3 giorni mi risponde una signora di 43 anni, senza figli, che dice: la sua sceneggiatura è bellissima, non è mai stato fatto un film che parla dell'ispettore in incognito, noi vi diamo tutti gli alberghi del mondo gratis per girare e per ospitarvi. Ed è così che io ho chiuso il film. E diceva: cora, cora, cora mia, lontana vai, tu m'lassi io con dolore, chissà quando tornerai. Rispondeva: tornerai quando tornano le rose, si sto cuore torna a maggio, pure a maggio stonga qua. Si sto giorno torna a maggio, pure a maggio sto caccato. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. Ecco, Marisole Tognazzi che ci ha parlato del suo film Viaggio sola è volata via dal faro. Però ne abbiamo un'altra. Abbiamo la sceneggiatrice del film, firmato da Marisole Tognazzi, da Ivan Cotroneo, ed è Francesca Marciano. C'è un'altra donna libera dietro questo film. Questa ragazzina che scappò a New York, è elegante, picara, e che ha avuto un grandissimo successo, e avventurosa e piena di coraggio, ha avuto una casa in Kenya, una grande giramondo. Lei è tra i massimi sceneggiatori del cinema italiano e poi anche scrittrice. Ha scritto per esempio La fine delle buone maniere, La casa rossa, ed è insieme Stacanovista e anche Bon Vivant, come si diceva una volta. Anche lei ci fa questo onore, che ci parla dal faro. Francesca, mi senti? Ti sento benissimo, Barbara, ho sentito anche tutte le cose esageratamente belle che hai detto su di me. Senti, anche tu lo so che ho un fidanzato, ma io ti ho sempre vista, sì, in belle compagnie amorose, però ti ho sempre vista come una single accompagnata. Ma lo sono stata, perché in realtà diciamo che l'80% della mia vita da adulta l'ho passato un po' da single. Poi ogni tanto si trova l'amore e si cerca di mantenerlo, però ho vissuto molto molto l'esperienza, diciamo, di donna. Io odio un po' questa parola sola, che ha poi... Sì, sola che pare una condanna, sì. Sì, no, non si dice mai un uomo solo, e la donna sola fa subito tristezza. Diciamo senza marito, non sposata, libera. Diciamo libera. Indipendente, sì. Autonoma, cioè troviamo la parte bella del fatto che non si stia in due, che non è sempre una maledizione, ma secondo me al contrario... da tanta libertà. Senti, Francesca, ci parli di te e di Irene, di te e di Maria Sole. È stata questa idea di scrivere l'eresia italiana, scrivere di una donna, tra virgolette, che sta bene, senza marito, senza figli, senza cercare un fidanzato. Ci sembrava 2 o 3 anni fa, quando abbiamo cominciato a cercare un'idea, che in quel momento, ma forse anche oggi, tutti i film che erano in programmazione li abbiamo contati allora, ed finivano tutti con donna incinta, matrimoni, figli in attesa, figli che arrivavano, e c'erano sempre famiglie. Ora, quindi il diktat della società è figliare e accoppiarsi. quello è uguale a felicità, realizzazione. Ora, questa cosa non è nemmeno più vera, perché il mondo dei singoli in entrambi i sessi sta crescendo, anche se io sono convinta che gli uomini sono meno capaci di stare da soli e stare bene. Oh, loro sono orfani. Sono orfani e cercano di nuovo la mamma, mentre invece le donne sono molto più capaci di organizzarsi, di vivere e anche di star bene a tutte le età. Anche da grandi, anche diciamo le donne anziane che rimangono sole, scoprono a volte una libertà incredibile negli ultimi anni della loro vita. Quest'idea di parlare di un personaggio come quello che fa Margherita ci portava comunque ad una scelta, no? Come evitare il finale felice, l'happy ending dove lui trova lei? Rassicurante. Sì, rassicurante. Come evitarlo? Perché quello era anche il nostro punto di arrivo, sul quale eravamo proprio decisi a non mollare anche con Ivan. E infatti il film, che ha un arco abbastanza curioso, nel senso che non c'è poi, come dire, la trasformazione del personaggio, lei ritorna a un momento di crisi in cui improvvisamente si sente un pochino più fragile, è una cosa che succede a tutti, e però poi subito dopo si rende conto che la soluzione più facile, cioè quella di ritornare con il suo vecchio fidanzato, cioè il pentimento, il rimpianto, sarebbe la soluzione più sbagliata. E poi voglio dire un'altra cosa, che il film non è solo un film sull'indipendenza e la scelta che fa Margherita, è anche molto un film sulla solidarietà femminile, perché poi in fondo sono tante donne nel film che litigano, che fanno pace, che si antagonizzano, ma che poi finiscono per solidarizzare, lei con la sorella, lei con quella che potrebbe essere la sua antagonista, cioè la nuova storia del suo ex fidanzato, lei con questa sconosciuta che incontra in albergo. In fondo sono protagoniste tante donne nel film che si trovano, che si interessano l'una dell'altra. Cioè sono più le donne che mi sembra sono curiose una dell'altra ad essere le protagoniste del film. Alla fine si vogliono bene. Si vogliono bene, cioè, esatto. Io questa parola solidarietà non lo so, però sicuramente si vogliono bene. C'è quell'abbraccio finale fra lei e questa ragazza che è rimasta incinta del suo ex fidanzato. A me quella scena per me è molto importante, perché è l'abbraccio tra due donne che non si conoscono ma si capiscono. È bello perché sembra che l'altra, che è interpretata da Alessia Barella, Fabiana, sembra che la guardi in cagnesco, sembra che la guardi come una rivale, poi d'improvviso c'è questa esplosione di affettività. Quello per me è un momento importante del film. Però le donne sono curiose una dell'altra, secondo me oggi, molto di più, non si vedono solo come delle... È una grande novità, è una grande novità culturale, si parla sempre dell'antagonismo, in verità le donne si seducono le une con le altre, si riconoscono molto. Un'autorità della seduzione. E secondo me le donne stanno bene insieme, si divertono. Tra donne in realtà non c'è quel problema della competizione, del chi è più forte, quindi questo toglie tante noie di mezzo, no? Se posso dire una cosa del film e delle reazioni che il film ha avuto, insomma, sono felice del successo, però sono anche sorpresa quando dice un film innovativo, un film originale. Penso che sia la cifra di come siamo messi male. Beh, innovativa nel senso che non segue degli stilemi obbligati. Senza parlare male di nessuno, ma le commedie amorose italiane fanno schifo. Diciamo la verità, perché dopo la prima scena tu potresti immediatamente sapere cosa viene dopo. Se il colpo di scena, chiamiamolo così, è che lei inizia da sola e finisce da sola, dico, questa è la cifra di quanto siamo ancora indietro. Beh, ecco, se lo vogliamo chiamare ragione, il colpo di scena. Il colpo di scena è la vita qui. Esatto. E soprattutto che nessuna vita è migliore di un'altra, perché non lo è, la sua non è migliore di quella della sorella, ma non è migliore quella della sorella della sua, perché tutti hanno problemi, tutti hanno difficoltà, tutti hanno momenti di solitudine, si è soli in coppia, si è soli da soli, cioè a tutti abbiamo delle crisi, tutti vorremmo avere la vita di qualcun altro. Beh, io da spettatore, vedendo la vita della sorella, pensavo piuttosto spararsi un colpo subito, francamente. L'ha detto anche mia sorella, che ha tre figli, mi ha detto, ma io 100.000 volte voglio fare la vita di Margherita Bui. Però è buffo, perché ognuno poi guarda l'altro con quell'idea che forse l'altro ha fatto la scelta migliore, no? Allora faccio un'ultima domanda a Francesca Marciano, che sta parlando del film girato da Maria Sole Tognazzi e sceneggiato da lei, da Ivan Cotroneo, Viaggio sola. Senti, e cosa pensi del sorprendente successo di questo film? Guarda, sono contenta perché è un piccolo film che è costato poco, che siamo riusciti a fare appunto con un budget molto limitato, anche se abbiamo lavorato tanto sulla sceneggiatura, ma che mi sembra che questo successo possa aiutare una nuova produzione di commedie che non sono soltanto puramente di evasione, ma che possono essere delle commedie, diciamo, che fanno anche pensare, che coinvolgono il pubblico anche su delle problematiche un pochino più complesse, diciamo, delle commedie. E più vere, diciamo. E più vere, cioè, si può ridere, cioè lo stesso pubblico può andare a vedere i panettoni, ma può anche venire, evidentemente vuole anche vedere delle cose delle quali ci si riconosce, non soltanto per le battutacce, ecco. Qui capitaneria di porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.